e già mi par sentire l'ultima tromba venire. Uscite dalla fossa, senna rispaset ossa, sotet me ancora, prendeti cor più rosa, venite a dir il vero, se fu miglior pensiero, servirà al mondo fa. Quantum grenzen